Benvenuti alla 15ª puntata di Cialtroni nello spazio. La trasmissione di musica, cultura, digitale e informatica. Ma quando lo dicevo io non andava bene, perché adesso va bene? Perché adesso lo dico io. Allora, siamo arrivati anche all'11 di maggio e sì. Nella puntata di oggi di cosa parleremo, Alessandro? Innanzitutto salutiamo Alessandro, ciao Alessandro, ciao, di essere con noi, grazie. Ciao a tutti. Alessandro è sempre distratto. In realtà perché canale. Noi gli facciamo fare un milione di cose, tipo controllare la registrazione, controllare i volumi, scegliere la musica, schiacciare play. La regia, insomma. Vabbè, dunque oggi parliamo un paio di news. Intanto è tornata la nostra base tradizionale, i Chemical Brothers. Parleremo un paio di news, poi parleremo del po' di come si fa la masterizzazione sotto Windows e sotto Linux con dei prodotti open source che permettono anche per esempio di fare copie di CD protetti che ormai sono andati abbastanza in voga. E poi Marco ci parlerà di un libro sotto licenza Creative Commons che parla di digitale terrestre e di tecnologie televisive e non. E adesso andiamo a sentire il gruppo di stasera, preso sempre dal catalogo Anomalo, che ormai penso che conosciate. Allora, il gruppo si chiama Paddy, è un gruppo che non esiste più, ha cambiato nome ed è sempre prodotto comunque da Anomalo. Il titolo dell'album è Percorsi Anomali e questo è Viceversa. I'm white. finalmente anche un po' di rock all'interno di Cialtroni nello spazio. Allora, Alessandro, ci dici due parole magari anche su questo gruppo che ci hai presentato oggi. Sempre complimenti al nostro consulente musicale Alessandro, che anche grazie all'aiuto dei numerosi siti che presentano della musica autoprodotta riesce sempre a procurarci qualcosa di carino. A me piace molto il rock, quindi sono contento che oggi sei riuscito a trovare questo fantastico gruppo che si chiama Paddy. Sì, in effetti di rock è abbastanza difficile trovarlo nel circuito comunque della musica indipendente, diciamo che si trovano generi più che altro legati al punk piuttosto che alla musica elettronica di tutte le varie influenze, vari rami. Comunque questi Paddy nascono nel 95 e sono tutti musicisti abbastanza navigati, hanno fatto svariate collaborazioni in precedenza passando tra vari nomi. Adesso la loro storia si può trovare tranquillamente su www.anomolo.com, c'è la biografia completa. E hanno fatto diverse cose, tra l'altro vabbè, si capisce anche dalle loro sonorità. Comunque hanno collaborato, fatto supporto ai Marlene Kunz, ai Casino Royale. Infatti un po' l'influenza dei Marlene Kunz si sentiva effettivamente. Agli After Hour, insomma, comunque il genere indipendente, rock indipendente italiano che si sente tranquillamente nelle loro canzoni. C'è da dire che poi si sono sciolti nel 2002 e hanno iniziato a lavorare su un altro progetto che rientra sempre nella produzione di Anomalo, che sono gli High Risk Café, ma hanno preso una deriva un po' più elettronica, inserendo comunque una serie di elementi elettronici, basi, eccetera, alle chitarre rock. Comunque abbastanza interessante, comunque un'evoluzione che ha influenzato molti gruppi italiani degli anni 90 e quindi poi nel 2000. C'è da dire che c'è sempre stato un certo legame tra la musica elettronica, la musica insomma digitale e il cyberpunk, che faceva parte un po' anche delle sottoculture che sono nate all'interno, insomma, all'interno di quella che possiamo definire un po' la rivoluzione informatica, e questo ci lega alla news del giorno. Un momento di defiance all'interno della trasmissione. Sì, perché Zab non aveva capito la scaletta, comunque. Allora, invece no, la news di oggi è legata comunque ad una posizione presa da Adiconsum, pubblicata sul sito Punto Informatico, riguardo al digitale terrestre. E Adiconsum sostanzialmente dice che il termine del 2006 per l'entrata, per l'obbligo al passaggio del digitale sia per le televisioni che per le radio è assolutamente prematuro, che insomma la tecnologia non è abbastanza diffusa e non si capisce perché di tutta questa fretta riguardo appunto al passaggio al digitale. Sembra proprio una cosa che non ha alcun, diciamo, che non ha un grande interesse per la comunità, per diciamo, la comunità, quanto piuttosto per chiarendo le cose, diciamo che dal 1 gennaio 2006, stando a questa appunto normativa, tuttora in vigore ovviamente, non ci saranno più trasmissioni analogiche televisive, per cui tutti i nostri televisori dovrebbero essere o convertiti mediante una scatoletta esterna oppure buttati via. Ecco, da un certo punto compra il digitale terrestre, la scatola del digitale terrestre, o dal 1 gennaio 2006 non dovrebbe esserci più trasmissione analogica. Ecco, da un punto di vista tecnico questo permetterebbe di liberare delle frequenze, perché all'interno dell'etere lo spazio è molto limitato, soprattutto in un sistema molto frammentato come quello italiano, dove insomma non esiste un piano di assegnazione delle frequenze nazionale studiato a tavolino, ma è stata una normalizzazione di quello che era di fatto uno stato di essere, cioè qualcuno occupava una frequenza e poi aspettava che arrivasse un condono. È successo così per moltissime radio, per moltissime televisioni, una su tutte le reti Mediaset, che poi addirittura si sono fatte fare le leggi, e per liberare e avere più televisioni, più radio, sarebbe necessario passare al digitale terrestre o al satellitale, dato che in una sola banda di quello che passa attraverso il digitale terrestre in televisione mi sembra che ci siano quattro canali televisivi compressi in digitale, però non voglio dare questo dettaglio tecnico come per certo. Poi i discorsi che si possono fare sul digitale terrestre sono molti, tra l'altro Marco voleva proprio parlarci, di accennare un attimo a un libro che parla proprio di questo. Allora, esatto, il libro l'ho trovato più o meno per caso ed è, vabbè, cito subito, il titolo è Time Out, è un libro di Mauro Milani. L'ho trovato per caso cercando, vabbè, girando per internet, e soprattutto questo libro l'ho preso perché è un libro pubblicato in una licenza Creative Commons ed è liberamente scaricabile dal sito www.thezion.net/time_out.pdf. Ricordo sempre che i link che diamo durante la trasmissione li trovate poi tutti sul nostro sito web, che è non appena Ale fa il sporco lavoro di mettere tutto sul sito, che di solito è abbastanza puntuale, bisogna dire, esatto. Che effettivamente questa trasmissione senza Ale farebbe fatica a stare in piedi. Infatti, grazie Ale. E appunto stavo dicendo, su questo sito thezion.net si può scaricare liberamente questo libro, che è abbastanza, allora, no, innanzitutto premetto, non l'ho letto ancora tutto, lo sto leggendo proprio adesso, però mi sento già di citarlo perché comunque nelle parti che ho letto è abbastanza interessante l'analisi che fa, soprattutto sia dal punto di vista tecnologico, per cui considera ad esempio il digitale terrestre e la distribuzione invece di video via satellite. E beh, diciamo che è un libro che va un po' al di là delle problematiche legate solo esclusivamente al digitale terrestre. No, no, ovviamente, però stavo appunto dicendo che comunque analizza sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista politico, diciamo, l'utilizzo e l'accesso ai nuovi media, quindi ai nuovi media, alla televisione digitale, ad internet, ed fa un'analisi abbastanza carina, soprattutto, vabbè, per adesso sto leggendo quanto riguarda appunto la distribuzione via satellite di contenuti con Sky, è anche carino tutta la parte relativa alle codifiche, per cui Sky decide di andare contro quanto era l'accordo del decoder unico. L'accordo appunto del decoder unico, per cui produce un suo decoder che è incompatibile con gli altri, e quindi a quel punto impedisce a coloro che hanno Sky di vedere altri canali, per cui diciamo diventa una sorta di monopolista della distribuzione via satellite adesso. E poi, vabbè, altre analisi relative alla gestione di, ad esempio, dell'Auditel, dell'Audisat, ovvero sia chi decide, quali sono gli share di ascolto. L'Auditel è un organismo composto per il circa più o meno il 50% da persone di Mediaset, e l'altro 50% da persone della Rai, per cui si decidono loro le share seguendo chissà quali politiche o quali campionamenti della popolazione. Diciamo, il libro è molto carino, e non l'ho ancora finito, però comunque lo consiglio. Non è particolarmente lungo, sono 160 pagine circa, scritte abbastanza larghe. Sì, e poi diciamo una lettura non tecnica, cioè non molto tecnica, per cui è anche piacevole, e abbastanza discorsivo, quindi diciamo che è un libro consigliabile a tutti quelli che vogliono capire un pochino come vanno le nuove tecnologie e quanto è marketing, o comunque quanto è fumo quello che viene passato sui media tradizionali, e quanti interessi ci sono dietro a scelte che sembrano assolutamente tecniche e che vengono spacciate come indispensabili o come uniche alternative, quando in realtà spesso si tratta solo di scelte che fanno comodo a chi le prende o ai vari lobby che le gestiscono. E infatti, da questo punto di vista, ritornando appunto all'articolo di News del di Adiconsum, in realtà spesso nell'articolo richiama moltissime delle cose che abbiamo appena detto riguardo alla diffusione delle tecnologie, quindi parla anche di banda larga, di digitale non terrestre, quindi di Sky e di una serie di altre cose riguardo appunto alla diffusione delle tecnologie. Andiamo avanti con la prossima news, prima di passare a parlare di software. Appunto di questi giorni una analisi delle scuole inglesi, penso del Ministero dell'Istruzione inglese, che ha fatto un'analisi... Adesso faccio il pignolo Regno Unito, direi. United Kingdom. Ok. Ok, che ha fatto un'analisi a posteriori, confrontando le scuole che utilizzano software e tecnologie libere rispetto a quelle che utilizzano invece soluzioni proprietarie e in particolare i sistemi operativi della Microsoft. Il risultato è che nelle scuole primarie, che dovrebbero essere penso le nostre elementari medie, appunto, il guadagno il risparmio delle scuole che utilizzano tecnologie su software libero si attesta intorno al circa quasi il 50%, tenendo conto dei costi dell'hardware, del software e del supporto, quindi diciamo tutti i costi che servono a fornire il servizio agli studenti. E mentre invece per le scuole secondarie, che dovrebbero essere l'equivalente delle nostre superiori, questo risparmio sempre sul 24-25% circa. L'interessante di questa analisi è che, a differenza di molte analisi che vengono fatte riguardo ai costi dei servizi informatici in generale, quindi che possono essere legati alla scuola o a quelle aziende, questi sono costi reali calcolati su una spesa effettiva, a differenza di quelli paventati da molte aziende, tra cui anche Microsoft, che fa dei calcoli su costi, diciamo, teorici. Beh, normalmente queste analisi vengono fatte in questo modo. Una azienda decide di pagare un consulente, un analista o un istituto di analisi, e in modo da avere determinati risultati, e quindi questi fanno in modo di ottenere i risultati chiesti dal committente. Per cui se Microsoft chiede a Anderson Castle, no, qualcosa del genere, Anderson Consulting, no, non c'è più, vabbè, insomma, una di queste grandi firme della consulenza informatica mondiale, di che nascono e che muoiono, appunto, esatto, che rapidamente fargli uno studio che dice che mettere tecnologie Microsoft costa di meno rispetto a mettere tecnologie libere, ovviamente questi eseguono. C'è anche un problema sui tempi, nel senso che molto spesso passare da un sistema operativo a un altro ha effettivamente dei costi molto alti nel breve periodo, ma bisogna fare dei ragionamenti sul lungo periodo per cercare di capire quali possono essere veramente i vantaggi, nel senso che comunque se si dovesse pensare solo al bilancio annuale di qualcuno che decide di passare da un sistema operativo ad un altro, è ovvio che i costi per quell'anno possono essere molto alti, anche semplicemente per la formazione del personale, cose e costi di questo tipo. Ovviamente però, per quanto riguarda l'informatica, la questione, lungo periodo, fare degli investimenti in lungo periodo è sempre sbagliato, perché le tecnologie sono sempre in continua evoluzione, probabilmente tu ti riferivi a un medio periodo. Ovviamente stravolgere un sistema informatico non è mai la cosa più giusta, però comunque intraprendere una strada che con passi successivi porti verso le tecnologie libere è una cosa ovviamente sensata. Io non sono d'accordo con Marco, ma glielo dirò mentre Ale ci presenta il prossimo pezzo. Allora, il prossimo pezzo è quello che dà il titolo all'album, si chiama Percorsi Anomali, e questi sono sempre i Paddy. Come? torniamo quindi all'interno della trasmissione Cialtroni nello spazio, spazio informativo dopo questo brano musicale. Adesso andiamo a parlare di software, andiamo a parlare in particolare di qualcosa per opporsi a delle forti limitazioni che vengono prodotte per chi acquista dei CD audio. Oh, come tutti sanno, con un computer è facilmente costruibile un CD audio da poter ascoltare sul proprio registratore, sul proprio stereo, insomma, ecco, non mi veniva la parola stereo, lettore CD, autoradio, lettore CD, lettore MP3, che dir si voglia. Questo però non è sempre possibile. Comunque adesso cercheremo anche di superare qualche piccola restrizione. Diciamo che molto spesso negli ultimi anni le case discografiche si sono opposte a questa possibilità di fare delle copie ad uso personale di coloro che acquistano dei CD. Questo ha comportato delle notevoli restrizioni anche per coloro che legittimamente vogliono fare ciò che vogliono di un prodotto che hanno acquistato e pagato. Ad esempio l'ultimo CD di Guccini, che era uscito circa un anno e mezzo fa, era protetto e non era possibile acquistarlo, era possibile acquistarlo e ascoltarlo sul computer solo tramite un programma che si apriva automaticamente una volta che veniva inserito il CD. Non era possibile farne una copia di sicurezza, non era possibile trarne l'audio per ascoltarlo su un riproduttore MP3 portatile, non era possibile farsene una copia sul proprio computer per avercelo sempre in giro, per esempio sul portatile. E come questo farsene CD semplicemente una copia per non rovinare il CD originale. Esatto, e come questo CD, nel caso specifico di Guccini, ma non voglio dare la colpa all'artista, perché molto spesso è la scelta della casa discografica, però è solo per fare un esempio sicuramente alla portata di tutti, non era possibile quindi fare queste copie. In realtà esistono dei modi per aggirare le limitazioni che vengono imposte dalle case discografiche. È un po' ambigua la legislazione in questo caso, però non ci sono particolari problemi per chi fa le copie ad uso personale, ovviamente, di un CD che ha acquistato legittimamente. E poi vabbè, insomma, questo noi vogliamo solo dare dei consigli. Questo è possibile tramite diversi modi. Quello che presentiamo oggi è un programma che funziona sotto Windows, che si chiama CDX e che si trova sul sito di SourceForge, dove prima o poi faremo magari anche una puntata per spiegare meglio questo progetto. Comunque l'indirizzo è CDX, quindi Como, Domodossola, Empoli, X come X-Men, l'eroe dei fumetti. Allora è cdexos.sourceforge.net. E quindi questo programma funziona sotto Windows. Una volta inserito il CD di cui si vuole fare la copia, è possibile semplicemente, aprendo poi questo programma, si leggono le tracce. Questo programma aggira in un certo senso la protezione che viene imposta e che permette e che fa aprire automaticamente sulla maggior parte dei CD che vengono protetti un player proprietario, e quindi la possibilità di ascoltarlo solo con uno specifico programma. Utilizzando CDX si vedono invece le tracce del CD, tra l'altro schiacciando un semplice tasto ci si collega automaticamente con un database che, se qualcuno ha già fatto una copia di quel CD, contiene già il titolo delle canzoni, le durate, il titolo dell'artista, il titolo dell'album, e quindi non c'è nemmeno bisogno di copiarlo a mano. E poi con delle semplici operazioni, cioè facendo clic su esporta in MP3 o in OGG, che è un formato libero, si può tranquillamente fare una copia sul proprio computer di questo CD, che anche se era protetto, comunque si può utilizzare anche per fare mi arrivano i messaggi di Marco che mi distraggono. Comunque si può anche fare una copia sul proprio computer e poi poter farne una copia su un altro CD. Per fare una copia su un altro CD esistono diverse possibilità, Ale. Allora, partiamo da quella migliore. Sotto Linux esiste un software che è considerato tutti ormai il clone di Nero, della Head, che viene utilizzato sotto Windows e che è completo, nel senso che è in grado di fare qualsiasi tipo di CD o DVD, e si chiama K3B, basato sulle librerie di KDE, quindi è necessario avere quelle librerie per farlo funzionare. Il KDE è in tutto simile a Nero, quindi è in grado di fare CD audio, CD di dati, DVD video e tutta una serie di cose. Converte automaticamente dai formati MP3, OGG, ACC, insomma tutti i vari formati più utilizzati tipo audio. Supporta la maggior parte dei masterizzatori attraverso il CD Record e CDR DAO, che sono due programmi di scrittura di CD di Linux. E diciamo che questa è una soluzione completa, funzionante, che ormai è diventata anche abbastanza stabile. E diciamo anche piacevole e bella da usare. Comunque sì, sì, è tutta interfaccia grafica. Chi è abituato a utilizzare Nero non avrà assolutamente alcun tipo di problema a utilizzare K3B. Sotto Windows invece non esistono soluzioni open source complete. Esiste un programma che si chiama CDRTFE, che è un'interfaccia, diciamo, per una serie di librerie che è in grado di, appunto, masterizzare CD. L'interfaccia è abbastanza scarna, però come funzionalità copre un po' tutte le possibilità, quindi può fare tranquillamente CD audio, video. Per il momento non supporta DVD e supporta la creazione di video CD solo attraverso un'altra libreria, che è quella del Cygwin. E comunque vabbè, il progetto sembra ben avviato e dovrebbe migliorare un pochino anche la grafica e tutto quanto. Esistono comunque dei prodotti free che non sono open sotto Windows, che di cui non parliamo perché vogliamo evitare di parlare di prodotti semplicemente free, che purtroppo hanno problemi di librerie, quindi non possono essere rilasciati sotto licenza di GPL, e quindi sostanzialmente sotto Windows latita un vero sostituto dei programmi a pagamento. Allora, il front-end comunque per Windows si chiama CDRTFA, si trova facilmente digitandolo dentro Google, è la prima scelta. Purtroppo il link è un po' complicato, quindi al limite lo troverete sul sito. Andiamo a sentire l'ultimo brano dei Paddy, è la traccia numero 5. imprigionare. Come da sigla si chiude qui la puntata odierna di Cialtroni nello spazio. Quindicesima. La quindicesima, bravo Marco. Un saluto quindi da Francesco. Da Marco. Ciao da Alessandro. E ci vediamo alla... No, non ci vediamo, ci sentiamo. Vabbè, noi ci vediamo, dai, va bene, noi ci vediamo. Noi ci vediamo e voi ci sentite e essi ci sentono. Schermaglia in trasmissione, il nostro sito www.circola.net, cliccate seguite sulla destra, c'è Cialtroni nello spazio. A mercoledì prossimo! Ciao!